Questo rap educa con il rispetto e si agevola per chi lo porta al suo cospetto. Check it. E va così. Il primo estratto, oltre l'orizzonte. Manda che. Cerco il caos nel silenzio, la rivoluzione nell'autolesione in preda all'assunzione dell'assenzio. Ho preso i miei rimpianti e ce li sto affogando, con l'affanno sogno strade di cristallo, camminando sopra sogni infranti, dimmi che ci spinge. Se vale la pena uccidersi per qualcuno che con noi vince. Sto sopra gli sbalti, ma dimmi che si vince a lasciare ogni legame che con ognuno stringe. Io non ho più niente, ho perso tutto già da un pezzo, quindi quando prendi scelte sappi prima qual è il prezzo. Accidentalmente ho sbagliato ambiente, adesso chiudo legami come spengo sigarette, lo confesso e professo una fede che non può venire estinta. Ho promesso d'avere una coscienza più che linda, con la conoscenza che se vuoi non vuoi, nella sconfitta esiste sempre un modo per poi averla vinta. Ho dato tutto quanto, ho perso tutto quanto, sono cambiato tanto perché il mondo mi ha portato a farlo. Ho il volto affranto, l'anima è un disastro e non ricevo manco la metà se poi mi sbatto. Ma quello che io cerco sta oltre l'orizzonte, la scrittura